peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Beroni di Salpinaz. Oggi direi che l'occasione è quella di ascoltare alcuni vecchi giganti, vecchi leoni della scuola, diciamo dell'età che vanno nati tra gli anni 30 e l'inizio degli anni 40, dal 32 al 42 più o meno. Sono musicisti che hanno fatto una storia, che hanno fatto la storia del jazz, più o meno rilevanti, al di là dell'importanza, però la cosa curiosa è che tutti e quattro continuano una loro attività, una loro vitalità creativa, pur mantenendo comunque il proprio stile legato ai momenti nei quali sono cresciuti maggiormente da un punto di vista artistico, però riescono ad esprimersi ancora con una vitalità e una vena interessanti. Si va da misure più contenute a grandi musicisti. Il primo che ascolteremo è Oliver Lake. Oliver Lake, tra l'altro, che ha avuto un periodo importante negli anni 70, è stato uno dei musicisti più interessanti dell'avanguardia degli anni 70, e poi ha continuato la sua attività soprattutto con World Saxophone, ha avuto modo di esprimersi a grandi livelli, ma sicuramente si era appannato negli anni successivi per poi negli ultimi tempi riemergere con una notevole vitalità e anche con un risultato artistico di notevole livello. Ha formato da qualche anno un trio che ha dato alcune prove anche di testimonianza discografica, un trio formato oltre che da lui al sax, da Reggie Workman al contrabbasso, anche questo un vecchio leone che parte dagli inizi, dalla collaborazione con Coltrane per poi attraversare praticamente tutta la storia del jazz degli anni 60 e 70 soprattutto. E alla batteria Andrew Cyril, percussionista, batterista che ha accompagnato Cecil Taylor nel periodo probabilmente più importante, più forte della sua carriera artistica. Poi si aggiunge una sorta di ospite, oppure perlomeno una collaborazione tra primi, che è Jason Moran al pianoforte, sicuramente di una generazione più giovane. Ecco, il risultato è interessante. Sicuramente c'è un avvicinamento al linguaggio del rap, infatti un po' tutti, soprattutto Andrew Cyril e Oliver Lake danno prova anche di una attività canora per quanto riguarda comunque un fraseggio rap. Ascoltiamo un paio di brani da questo disco uscito l'anno scorso per la Intact, etichetta che peraltro continua a testimoniare un po' tutti i livelli di esperienze di ricerca nell'ambito jazzistico, sia di recupero di grandi personaggi che di novità. Ascoltiamo queste due composizioni che sono firmate dal trio. We'll be right back. breaking glass. My mama used to break glass. I say, what you doing? She breaking glass. She say, we get 25 cents for every bushel basket of glass, so pick up all them empties and put them in the basket. Why she breaking glass? She owns the Five Sisters restaurant with her four sisters. She owns the pool room next door to the Five Sisters and the car wash right next door to the pool room. And she owns my three-chair shoeshine parlor that my stepfather built for me, which is next door to the car wash. And she owns the house, which is just next door to the shoeshine parlor. Why is she breaking glass? Man, that was the property from the corner to the middle of the block. I didn't want to pick up no empty bottles, but she did. Every time I heard, chink, chink, chink, it was my mama breaking glass with a hammer. She had a hammer early Sunday morning. Chink, chink, chink. That's the morning after the Saturday all-night crap game that my dad ran. He was the house man, got his cut on every play. And I smelled the hickory smoke late every Saturday night, cause every Sunday my mama sold barbecue dinners right out of the house. She had all that, and she broke glass. At 25 cent a bushel basket, she racked balls in the pool room, cooked pig ear sandwiches in the restaurant, and gave me anything I asked for. I'm much older, and my mom has passed on over the white stone. Now, I'm breaking glass. Bo Peep, man from the deep, whose horn can really, really beat. A look at his shoes, look at his clothes, and the apogee of his super pose. High Priest Bo Peep, man from the deep, whose horn can really, really beat. A look at his shoes, look at his clothes, and the apogee of his super pose. Questo era il trio di Oliver Lake con Reggie Workman al contrabbasso e Andrew Searle alla batteria e in un incontro con il pianoforte di Jason Moran. Direi che Jason Moran ha una personalità che conduce anche l'intera performance. Il disco uscito l'anno scorso per la Intact ed è intitolato Reflection Breaking Glass. E quindi abbiamo detto Oliver Lake come recupero di uno dei protagonisti degli anni 70, dell'avanguardia degli anni 70. Una caratteristica dei musicisti che ascoltiamo oggi sono che, nonostante l'età, hanno mantenuto un'attenzione, si possono ascrivere, diciamo, nella schiera dei musicisti di ricerca. Hanno comunque ricercato costantemente dei linguaggi diversi, magari anche con piccoli passi, però tutti nella direzione di non dare per scontato, perlomeno quello che può essere una competenza acquisita o uno stile acquisito. Altro esempio di questo tipo, anche questo in un disco uscito quest'anno, è un lavoro di John Cicai. John Cicai, anche lui, è stato un protagonista forse di qualche anno precedente a Oliver Lake, direi che diventa protagonista all'inizio degli anni 60, fa parte di quella schiera di musicisti che sul seguito, diciamo, dello stile di Ornette Coleman hanno elaborato quello che poi è stato o è adesso definito il free bop. Quindi in collaborazione nei primi gruppi con Don Cherry, con Archie Shepp, quindi anche lui musicista peraltro europeo, di natalità europea, danese, e ha un percorso importante nella storia del jazz e tra l'altro è morto un paio d'anni fa. È uscito postumo un disco che dà testimonianza di una qualità che si è mantenuta nel tempo, un disco registrato nel 2008 in un concerto live, in un concerto dal vivo, ed è uscito in solo vinile, come peraltro succede per questa etichetta un po' particolare, un po' di nicchia, la No Business Record, ed è appunto una buona testimonianza. La formazione è un po' di all-star, perché oltre a Cicai, al sax tenore, al clarinetto basso, si affianca un altro fiato, più giovane sicuramente, Charlie Colas, un musicista che è molto attivo anche da un punto di vista didattico, uno dei pilastri della Ether Orchestra, ed è un musicista con una formazione e una disponibilità anche a linguaggi diversi, sempre molto attenta. Poi si aggiunge anche Garrison Fellwell alla chitarra e alle percussioni e due vecchi giganti come Cecil McBee al contrabbasso e Billy Hart alla batteria. Peraltro Billy Hart si conferma come uno dei musicisti che negli ultimi anni ha decisamente imboccato la strada di una vitalità notevole. E buon risultato anche in questo caso. Il disco è intitolato Tribal Ghost. Thank you. Questo era un brano con una qualche evocazione hilleriana, sicuramente il sax di Cicai è piuttosto ben riconoscibile, ha una sonorità forte, molto personale anche. È una performance ben riuscita, è una degna testimonianza di quello che è stata l'importanza di questo sassofonista. Altro personaggio, ancor meno conosciuto, comunque direi piuttosto dimenticato, Sonny Simmons, negli ultimi anni ormai ha continuato la sua attività. Sonny Simmons nasce artisticamente all'inizio degli anni 60, diventa una sorta di alter ego di Eric Dolphy, e poi alla metà degli anni 60 incide alcuni dischi importanti che sono rimasti, diciamo, importanti per quel periodo, per l'etichetta ESP, un'etichetta che testimoniava un po' tutta l'avanguardia, i movimenti di avanguardia di quegli anni. Testimonianza anche abbastanza approssimativa da un punto di vista acustico, ma insomma comunque erano dei momenti interessanti dell'evoluzione della musica. E Sonny Simmons, flautista e sassofonista a sax contralto, e notevole, di buone qualità, e negli ultimi anni si è riaffacciato sulla scena internazionale con una formazione, con un gruppo che ha già al suo attivo diverse registrazioni, per lo più rilasciate dal vivo. Comunque sono buoni risultati. È una formazione che è composta, oltre che da lui al sax contralto, da Michael Marcus, altro sassofonista o fiato, sicuramente meno conosciuto, un po' più giovane, e poi Karen Borka al bassoon, Samir Katarie alle percussioni, William Parker al basso e Jay Rosen alla batteria. In questo caso, nel disco che ascoltiamo, che però è uno dei primi per questa formazione chiamata Cosmomatics, come ospite in alcuni brani anche il sax baritono di James Carter, in questo caso baritono, ma sicuramente un virtuoso di ogni tipo di ansa. Ed è curioso perché Carter non è certamente uno dei musicisti che può essere ascritto nelle schiere dei cultori del free. Comunque anche in questo caso diciamo che è un'esperienza legata al free senz'altro, però più diciamo a quello che è stato l'importanza di Mingus. Nel brano che ascoltiamo, tra l'altro, è una citazione quasi esplicita, Mingus Mangus, quindi la citazione di Mingus è evidente, però un po' in tutti i brani che si svolgono in questo lavoro, in questo concerto, si sente la mano e l'influenza di Mingus, come peraltro poi succede per molti altri musicisti, senz'altro anche più passa il tempo, più si nota l'influenza che questo gigante ha avuto nelle generazioni successive. Ascoltiamo questo brano preso dal primo dei dischi usciti con questo titolo, con questo nome, con questo progetto, The Cosmomatics. We'll be right back. Questo era il gruppo di Sonny Simmons, The Cosmomatics, una formazione che appunto recupera certi linguaggi di quello che è stata l'evoluzione, soprattutto dagli anni 60, delle esperienze dell'avanguardia. Una formazione che vede Sonny Simmons alle ansie, al sax contralto soprattutto, Michael Marcus alle ansie, William Parker al contrabbasso, Jay Rosen alla batteria. E il baritono che abbiamo ascoltato era quello di James Carter. Come ultima proposta per oggi, nel disco appena uscito dell'etichetta ECM, che vede la performance di Paul Bley al piano solo. L'ECM, tra l'altro, è uno dei primi numeri usciti per questa casa di Manfred Eicher, casa tedesca, che alla fine degli anni 60 iniziò questa attività, questo lungo percorso che ha formato poi una delle etichette discografiche più importanti d'Europa e forse del mondo. E Paul Bley era appunto tra la schiera dei musicisti che avevano ai quali aveva chiesto Manfred Eicher, aveva chiesto di dare una registrazione da poter pubblicare. E quindi è un'ottima cosa questo ritorno di un Paul Bley ormai attempato, è del 32, quindi ha già più di 80 anni, l'ECM appunto pubblica un concerto fatto da Paul Bley a Oslo, registrato però qualche anno fa. Infatti è un concerto registrato nel 2008 ed è uscito solo adesso. E comunque conferma le grandi qualità di Paul Bley, che rimane a mio avviso uno dei personaggi di punta, uno dei pilastri della storia del pianoforte dal dopoguerra in poi, musicista che si è affermato dopo le prime esperienze, tra l'altro molto giovane, con Charlie Parker, ma appunto ha accompagnato Ornette Coleman nelle prime testimonianze discografiche che ha lasciato Coleman, ma poi ha attraversato praticamente tutta la storia del jazz da quegli anni fino ad ora, collaborando con un'infinità di musicisti, sia dell'avanguardia che anche della tradizione. Penso per esempio anche alle collaborazioni con Chet Baker, e ha sempre mantenuto questa personalità forte, questo linguaggio mai banale, sempre molto ricercato da un punto di vista armonico, dove le note vengono studiate una per una, tra l'altro con una capacità evocativa veramente di alto livello. Ascoltiamo un lungo brano, sono tutte composizioni sue, a parte il brano conclusivo, che curiosamente è una composizione di Sonny Rollins, curiosamente nel senso che Sonny Rollins non è certamente stato uno dei personaggi dei compositori più frequentati da Paul Bley, però appunto questo è. Ascoltiamo questo lungo brano. Thank you. questo era Paul Bley nell'ultimo disco uscito per l'etichetta ECM, intitolato Play Blue Oslo Concert, quindi una registrazione di un concerto tenuto a Oslo nel 2008 e che appunto dà testimonianza ancora della grande vitalità di questo maestro del pianoforte che nonostante l'età riesce ancora ad esprimersi a pieno. Era l'ultimo ascolto per oggi, vi ricordo che la trasmissione la potete riascoltare o trovare anche le indicazioni discografiche nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione playlist. Salve a tutti, alla prossima. Sal peanuts. Jazz on megahertz. Sal peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.